fantasma senza lenzuolo. Vorrei spegnere i pensieri nel cervello, ficcarmi un bel punteruolo. Ho l'alito che puzza d'assenzio, lingua impastata. Puoi inquadrare la mia situazione dalla camminata. La pupilla si è appannata e cade pioggia torrenziale. Guardami annaspare come un pesce nel limo glaciale. Ottobre, folklore castagne nel regno di un mago. Stringendomi la sciarpa passeggio sul lungo lago. Eccoti, ti vedo impolverato, impoverito, imbarazzato, imbastardito, come un segreto incustodito. Non conosco un singolo individuo onesto e questo mi comprende, ti comprende. Cresce la mia irritazione, spesso rende il mio sorriso mesto, ma non importa, è colpa del mio vissuto indigesto che mi trasporta. Ma non posso accontentarmi e non cibarmi di magia, altrimenti faccio la tua fine stretto nell'idiocrisia. Allora tremo, rapida insorgenza d'astinenza, quindi cremo fiala di laudano e voleremo. Fremo, dammi psilocibina, voglio andare in trip. It's nothing against, work it up, just get a grip. Aumentando i livelli di dopamina, assumo scopo la mina, ti scopo e dopo stacco la spina. La mente al fardello dell'homo sapiens, sento ronzio, sono all'oblio. Delirium tremens, delirium tremens. Vedo doppio ovunque spavo, scricchiolandomi le ossa e ciondolando come un corpo morto in cerca di una fossa. Mi hanno cucito la bocca col filo nero, ammalato di vergogna ma non posso berne il siero. Ecco un conato e dopo un altro, ancora un altro, un altro ancora. Fisso un raspo ribollire nella melma viola. Era un filtro d'amore guasto, veleno nell'impasto. Forte soffia il vento, un avvertimento nefasto. Il fato mi fa naufragare come una carretta in mare. Sono il capitano della mia anima nel temporale. Tutto buio, pensami inchiodato ad una croce mentre ballo un salto. In onore a Satana, sono Barabba, sono Caino, sono Giuda, sono quello che tu chiami infame dalla tua sapienza celestiale. Io non li ho visti ancora, i nomi né Cristi, amen. Esco quando sviene il sole, quando gli orsi hanno fame. Parli della terra fredda, ti sei mai sporcato? Scendo il mio quartiere come sempre desolato. Cosa ho dentro, cosa mi sta attanagliando? Dov'è che sbaglio? Ferma questa nave nella baia, chiama l'ammiraglio. Vivi come fosse l'ultimo tuo affanno, gioca senza inganno. E se fai male a qualcun altro, gli altri capiranno. Perché tutto ciò che ho fatto poi mi è rimbalzato addosso come un treno. Resto sveglio fino all'alba intanto. Tremo, rapida insorgenza d'astinenza, quindi cremo fiala di laudano e voleremo. Fremo, dammi psilocibina, voglio andare in trip. It's nothing against, work it up, just get a grip. Aumentando i livelli di dopamina, assumo scopo la mina, ti scopo e dopo stacco la spina. La mente al fardello dell'homo sapiens, sento ronzio, sono all'oblio. Delirium tremens, delirium tremens.